ha venuto, dopo abbia fatto la cosa e andare a andare giù la moto. Io c'ho col variatore malossimo, c'ho sotto. C'era il telefono anzi. Piccina. Andiamo avanti. Mi è caduta stamattina, ha fatto anche una storta, poveraccio. Ma pure? Ehi, è caduta nelle scale qua. Queste scale sono pericolose. E poi sono terrote questo cazzo di scale. La giovane d'ore di Napa a contarli, ha chiesto di terzo piano, c'ha lo materiale, sta contando la casa ed invece a contare i cari. Dimmi tu. Allora, ma non vale più nulla. Ma io ho anche i soldi, capito? Non è mai aggiustato. Adesso è caduta mia moglie. Allora quando la ciappo ve lo dico. Ecco, se no consigliare donna meridina che c'è qualcuna famiglia di papà. Cosa cazzo? Mia moglie si è fatta male. Guarda, ma andando avrei chiamato un ragazzo, me l'avrei fatta mettere. Cioè alla fine deve funzionare così, perché se tu non sei capace. No, io no, se non posso camminare, cosa dimmi tu? Cosa? Ci siamo divertiti molto e volevamo. Non mi abitui quando cammino un po' un di me boso, lo manzano. Allora non so come manchi scende, che si fa di tempo male, manco ai scifati. Che mi fa male la gamba a me. Cosa? Se no non me la più battio, Riccardo. Gli ho dato i soldi per farle e non è affatto. Dato che si stava aggiustando la casa, ho detto aggiustarle, do i soldi io. Ha comprato un materiale, però cazzo si l'ha tratta a dedi. Non andava così, no? Ma in usuro, si mi rappende problemi per l'antenna, mi ha aiutato a capare l'antenna, c'avevo un'antenna, l'ho prestata a un amico infatti, di quelle multibanda per ascoltare, cazzo come l'ho messa fuori subito ha detto che lo stavo disturbando, dimmi tu. Aspetta che devo richiamare questa la pizzeria là. Porca miseria, cazzo mia. No, sta a posto. Gente, cosa vuoi fare? È gente inaffidabile. È gente che vuole fare da culo. Non si capisce niente, Luca, se non ammazzi. Ma che io non sento questo, Antu. Antu, ci sei? Ehi. Male, sto scendendo a tu. Oh, bene. L'antenna natalino. No, non lo sento. E vai, e raccontala ai morti. Da domani la buco, c'è antenna. Lascio il dipolo. Intanto per ascoltare va bene. Oh, guarda. Magari che l'antenna vuol dire che si disturba per le vicine distanze, non per le lontane distanze, come ti si dice, sa poti chi abbo. E qua finirà, chissà, vai, un bene. Luca, ma vero sì che non mi intendi? Sto prendendo per il sedere, sai. Non mi sente Luca, rovinati. No, non lo sento, se sta parlando dille che non lo sento io, non sta lì. Tu sei 9.10, Antu. Ma ho fatto una brutta, cosa 9.10? Questo qua sei fondo scala, Antu. Vedi che è fondo scala qua. A me mi sembra. E quindi Dio, Luca, cazzo. C'è Natalia e io mi affondo scala, ora si riprende. Tu oltre, cioè io 9.10, allora si scende con un capo. Ma neanche, è impossibile. Non è lì, va, non è lì. È impossibile. Se si dà l'altalino si affondo scala, cosa si riprende? Sarà diventato un soglio, sarà diventato. che è diventato amico di Jackie Brown e non mi accorgo malissimo. Amico di Jackie Brown. Sì, l'hanno fotografato in Paragiulio, gatta. Aia! Un signorino e Cicchi Paone, erano, a braccetto. Era giù, che non ricordo, era puttino io. Era di tipi di Tintengo con l'antennino, di Tintengo. Sì, ma io lo sto facendo apposta. Si deve vedere finché rimane con me. No. Arrivando a fondo scala, sta arrivando lo stesso. Quindi se lui arriva a fondo scala, cazzo, se io parlo mi sente anche lui, non ti preoccupare. Non si gaia sul conto. Ci picchia, ma c'è freddo veramente sta sera. Che lo so. Cosa c'è scritto, amore? Io mi ho acceso la stufa. Ah, tu fa adesso, Mario. No, di quelle a cherosene. Ah, sì, bro. Sì, che, quelle che mandano l'aria a casa, amico. Sono... è veramente bella quella lì. Ne ho due. Una normale, ma chi si acostuma a me? Invece chi si acostuma di Marco? Lo so, lo so. Problemi. La puta Sam, eppure qua voglio provare un apparecchio, un linguaggio, ci andiamo, ecco mutiamo, ma vedi com'è te. Adesso ancora piovendo tanto. Mi piace. Hola, senti la cosa. Come? Senti. Che c'è un'alternata tremenda. Evidentemente sì. Ma più quando? Ma che? Come lo proviamo questa funzionare di sopra? È qualcosa che non va, cioè. Adesso vediamo che me lo faccia controllare. Oh, Natali! Sì, dimmi. Ah, si sente? Sì, io. Stai facendo bene con questo? Sì, KK. Ma va a dormire, che va a brutta, va da qua a casa, va. Luca Flipper, aiuto, rispondi. Hola, chicos. Questo è un Intec. Sì, io ci penso. Gappa, lo facciamo andare un pochino. C'è un po' di lato di radio. Già andava. Anda benissimo. Ho dovuto attaccare la cassa perché non sentiva niente quella là. Ciao, Gappa. E ci ha legato già, rivendi che sto smitta. Guarda, vedere. Sono sempre con due batti io. Non lo chiami, lui non lo sa. 9.30, sì. E lui non mi sente. Prima di chiamare. Ma cosa? Andai. Scala. Ma io se proprio che tende la televisione la parli. Ed è bassa a bassa, amico. Se parlo distante io, si sente più la televisione che io. Cappa. Allora, se va a chi non c'ha la cosa, la ricezione che è un po' soleda. Oh. Però già funziona, dai. Che è lui. Cappa. Adesso è giusto per usarlo un pochino, poi dopo lo spengo. Sì, sì, c'è un regalo per te. Luca Flipper, mica che ha telefono a Cicchi Paone, mi. Vai, Cicchi Paone. È tuo. Chiamare Cicchi Paone. Cioè, però ho capito perché va questa ricezione così strana, questo apparecchio. Eppure il campo dell'uscita funziona bene. Fluia. Adesso ya che cosa va. Fluia. Se ci pongo d'ora la 48, ma la prova l'ho fatta andare un po'. Adesso ritorno a quello là. che mi pongo le cazzo e si fa, non vorrei andare in Bedica. Tu mandavo pure lui a giocare con i cibagli, con papi di Bedica con gelati. No, ma non appigliamo le cazzetti. Non troppo freddo. Se no, eccomi qua. E via. Gianni, non c'è più sentito. Cosa tu? Non ho più sentito a Gianni. Sì, ma già sta entrando già. Allora, siccome siamo molto... Guarda, c'è la dopo. Uia. Ecco qua. Oh, come che più caldo. Un freddo, Mandano il burruio senza gazzetti. Ma io ripeti congelarli. Allora cosa vuol dire? Non lo so. Prende e prendi. Oh, vedo freddo. E come te ha fatto la trombati dalla moto? Cosa, tu? Come te ha fatto la trombati dalla moto, tuo nipote? Ma cosa mi so? Dalla volta non ne ha voluto più sapere, l'aveva venduta a me il padre. Ed era un aprile, aveva uno scarabeo, era ma bello mica. Nuovo uno guida. Sì, un coraggioso, pure me era più matto un capitombolo, ma ora sono ho tornato a salire in sella. La verità, ma inviate più la moto che la macchina. Ma pure io sono un gaggiuzzo da giovane, un sacco di voci in moto. Cata e ti pare che tra una volta che caggia non vi posso più in moto. Quasi da ora parla lì. Ah, vabbè, già, come la portano là. cazzo, io ho già mangiato, cazzo, tu hai sentito la pizza, io giù a mangiata, ma non mi niente. Ho detto che tu mentre stai aspettando la pizza io ho già mangiato, perché stavo mangiando e parlando. Sì, ho detto, ma detto che arriva il ragazzo. Posso non ne ho. E paghiamo pure i contanti, lo devo fare. Il giorno d'oggi dove tutti hanno il POS e devono fare il POS. Anche noi ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo pagamento col POS. Cioè, dove la persona la sera vado a lavorare io lì. Stamattina stavo lavorando stamattina, anche la domenica. E paga pantaloni. E beh, c'è chi maone. Ascolta. Non mi rispondi, no. Adesso ti chiamo Cecchi Paone se non mi rispondi. Chi Paone? Se voglio correre a 9.30. Però già potete... Arriveranno per 60. Tu arrivi a... Grazie, sei in fondo a scala, tu. Ma lo sai lui, ho provato, riprendeva volte. Non mi ha più dato un problema da quando abbiamo fatto quel lavoro lì. È meglio così, se dà di nuovo il problema, la risistemiamo, non c'è problema. No, prima un pochettino si attrava la stazione, ma cosa entrava Eva. Ho fatto questo travaglio, non c'è più un problema nell'antenna, non ha fatto più nulla, è come che sia un altro tipo di antenna, non ha fatto più niente. La Grazioli. Ehi, alla Grazioli. Ehi, c'è un'antenna verde, la Grazioli. Porca, ehi, appena che posso la mettiamo sì. La mettiamo. Più noia, è un bel lavoro quello lì, l'ho provata stamani, deixa vedere, che ha fatto quella bomba d'acqua forte forte quando sono arrivato, l'ho provato, però sempre non si muove l'acqua. Sei meglio così, meglio Gai. Meglio Gai, buone a Gai, buone a Gui. E Gianni non sentisco, da quando è andato da coso, da Castrocaro, capita, hai chiamato le selezioni lì da come si chiama, da Maria De Filippa. Ma tanto era dopo, che problema, dai. E fendi Caravocchi. Scusate, sarà cantando, sarà. Sì, io mi sono già rompito lo yo-yo. Si è comprato nel MC60 a cantare appunto. Ah, vero? Collegato al computer. Ah, no. Io già rimane nella viaggiare a Bali in terra. Prima era tutti i giorni. Prima ne facciamo parecchio. Vabbè, io mi ho fatto la mia gavetta, me l'ho fatta. Ma di bello che ti portano un posto di mangiare, di la verità, e abbia go-go. Adesso era un anno che non mi fate abbi, più di un anno. Un anno e un bel po' di mesi che non faccio più niente. La gavetta mia mi l'ha giubata, me la passai. Ogni tanto, quando mi chiama neanche. Ciao, devo andare a pedire, non tu. Saranno i venendi da te, ciao. Prima di Canocca, in questo momento alla Napoli ne facevo tutti i giorni, via. Ma capetta, devi fare i locali a cantare tutti i giorni. la gambetta migliore. Io ho provato un astroso, a me non piace. La polizia ancora? Via! Avanti! Ancora non niente, sì! Ma tra un po' mi regali pure a me, ma niente, un bel tambocco, quello coso, quello, uia! Uova, patate, normalmente cosa si buoni, buonarito, No, ho già mangiato io, Antù. Io ho già mangiato, ho finito adesso. Ciao a tutti. Perché stavo mangiando e parlando con te. Questo è l'ultimo. Da quattro giorni che faccio bigliato, ha giovato, ha bigliato lo zaffizzone, vieni vieni, un poco di ziota, ha giovato questo sughetto che ha vini di Romondo, ma ha giovato le babette, ha giovato, ui, che cosa non ha. Io ce l'ha giovati io. La metti. Aveva un pezzo di salsiccione, aggiù un miliardo di nocche, la macelleria. Uia, buonare dove ci sono questa bagna. E ci vuole sì. Se la fai quella salsiccia, gli alluvioni che ci vuole. Non posso ben muovermi. Senti, adesso è finita. Io invece l'ho fatta con la ragù, l'ho fatta. Quelle bavette sta dicendo tu, le ho fatte oggi io. Ha giocato con lo sacchettone. Sì, è Simone, io pure, come di voi, ce lo porto pure io con lo sacchettone. Sono 15. Dopo, con lo sacchettone. Cazzo, ma buono un sapore, cavolo. A volte ti pongo una sacchetta. Certo, ma roba buona proprio. Capo, allora sai, la sera mi sono avanzato, mi sono guglionto, ma sta andando al microonde e mi dà giù mani anche. Buona vendita, ne. C'è anche più buono, ma lo sai che se metti qui salamini, li apri tu, li togli dal budello e lo tagli, lo usa salamino. Allora anche ci vuole lo zucco, se li buoni chi si. La capuccia sto andando di una persona, l'ho voluta proprio così, è tipo un burbuzza a me. E via della sacchizza, l'ho cercata proprio la più fresca che c'era. Via, l'ha giubata a sughetto, l'ha giubata con l'acqua qua in lì. Ma una redda era. Ti credo. Io le cerco, capito? Io la cerco. La cerco, così la cerco, capito? Molte volte. La gà! Ho visto una foto, gà, troppo in gamba. E quando puoi regalarmi a me? Prova a farlo con i salamini, tu fai questi salamini, che ti sono potuto sentire io, che ci sono uno attaccato all'altro. Avanti, ci vuole. Lo sugo. Io non so, poi la mamma chi sa mi natali. Guarda, non lo so già, ma io ho preso questo ciccione buono, fine. L'ho preso qua da Capinuccio, che era la macelleria. Aveva un pezzo, guarda che c'è un sugo, un cazzo, la fine di rumore, la diota tagliata tutta, con un buchetto da meme. Oia, fresca fresca. Sì, lo so, esce buono, esce. Quando lo fai così. Io pure lo voto così, mi dico, che era proprio pure i salamini, deve essere una bomba, deve essere. Ciao, vedi, questo è buono. Io un po' con la fine, lo voto così. Se tu quando posso la fine in casa, ma ti pongo lo salamino, cioè, ma ti pongo la salsiccia. Attacchita la salsiccia, brecca brecca, l'ho scelta apposta e l'ho voluta io così. Oh, il sapore è buono, anche la salsiccia secca. Così l'ho fatto. Adesso lo provo con i salsiccioni, che l'ho visto su internet, con i salamini voglio dire. C'è un sugo che è una bomba. Già te lo faccio a pelle, comunque esce buono, di sicuro. Scappa. Buona, roba buona. Roba buona, roba buona. Ma me lo torna a fare, cioè, io so che salagna, non me la so più di con le bambette, me la provate a fare. Troppo buona era, ma pagato quattro pacchi di chi l'avessi sentito di tu. E un pacco mi raggiungo tu oggi. Cazzo, ma non ha ridi, erano con un ragone. Cappa? Sì. Che sai che dammi un raffa? Ah, ma da pure di questi giorni mi posso pure raffa in me, infatti. Allora, adesso c'è di buca a me la breta, posso pure io. Un pacco è più a 100 grammi di chi sa farina di cecci. Ne ho un mico. Allora, io già mi faccio, allora voglio pure una farina, ma farla pizza. Ma chi si dice, allora qua, la farina ci da buona, mi ci da una buona la pizza. E infatti, se uno sapeva se la fate in casa, la cosa, e ci vuole una pizza. No, ma me la posso, che se mi posso la pizza. E infatti, io quando mi vuoi la breda, ma lo vorrò, provo a farla allora. A chi a me mi lasci da mare non mangio più fatto. A chi era sotto era bruciata e sopra era gruda, Trento. Era presa gururata, però Trento era gruda, non era come doveva uscire. Ma è K, andiamo sotto. Io ne posso due cotture, cioè faccio in baia, la metto, ma cucina bene, la pongo, lo corro a gas, poi la metto, la tolgo, dopo che la vedo che è coso, se la mi sedete con sopra, c'è la resistenza, la scalda forte e cucina anche sopra dopo, capito? Esci perfetta, esci, però anche là già esce bene anche là, Sì, adesso provo a vedere. Se mi esce bene, poi me la faccio anche io, sempre la fai di qua. Ma io sono qua la troppo grossa. No, a me non mi piace grossa, io la faccio vina. Buone intorno a Lizzy Cudrudi. Già, io già la so qua. Se pasticceria al forno della pizza mi è uscita con me, col forno di pasticceria, lo sanno, tu mi ci dà qua è in vita cucina a gas che non esce a sapere, bisogna punire di sabretta che mi ha visto tutto guarda che già accorgi, oh cavolo, non ci lo pongo in occhio, no, so si scioglie questa cosa. Ma Luca che fine ha fatto? Nato se ne è. Allora così è. Sta mangiando, Luca sta mangiando. Aspetta un po', arriva da me. All'otto mi ha detto che c'è un rotone. Il cognitone di Luca. Oh, che se non mi arriva la pizza. Vedi, ho brutto un rotone, la notte di ballo. Ma adesso, ma adesso. Vediamo che non fa il culo. Tra 10 minuti in occhi. Luca, che capelli del fumaro, ha bisogno di far strada, la notte mia. Ha bisogno di fare strada, perché bisogna di mettere i nomi. Ma dove l'hai ordinata tu? Allora mi telefonato da un altro, quando era un tu chi sono ne avevi umiliato? No, ma adesso alle 8 mi ha detto. Ehi, calotto allora, tirare calotto. Ma io allora aspetto. No, con l'antidossi. Quindi non ha di pane manchi strada. Dappa. Uia. Ma la cucola sta cassa, si sente un bel bene in affa lì. Ma ne ho fatto anche un'altra, lo sai. Ho messo nel comodino. Aspetta ancora un attimo, che i ciugani mi rompendo i ricattoli. Sì, ma. Ho detto che me ne ho preso anche un'altra di queste casse, no? Me l'ho messo nel comodino, ma la bomba è la stupa è mancata, e ci viaggiamo. Vabbè, vorrei premio pure che andando a pisciare i ciugani. Vabbè, altro io me la chiudo, là, ci sentiamo alle prossime. Ciao. sposa a Parigi. E che sto chiudendo, là. Ehi, a capo, la mia, ti già fatto la bomba, la madre, ma che sveglia. Sì, ok, dai, sentiamo alle prossime, là. Soprattutto a... Ehi, alla Parigi, alla prossima, adesso fa un po' arrivare la pizza. Sì, infatti. Ciao Luca, se sei in ascolto.